Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Supermercati banche 7-3. Questo è il risultato della partita sulla fiducia dei consumatori che emerge dal sondaggio realizzato da un importante osservatorio. Scopriremo tra poco le altre voci protagoniste di un match che boccia molte delle aziende fornitrici di servizi. E a proposito di match, sapete che esistono le Olimpiadi dei Mestieri, una sfida internazionale a colpi di mestoli, sac à poche e chiavi inglesi. Per il focus sui trend torniamo a parlare di bellezza, ma tutta al maschile, con le nuove manie che fanno tendenza su tutte, la barba e, pensate, la ceretta. E in chiusura, come sempre, il nostro appuntamento fisso con l'Italian Factor. Oggi parliamo di Made in Italy e officina creativa. La borsa della spesa. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va. Di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, mi fido di te. È fiducia la parola chiave dell'approfondimento di questa settimana, una parola sempre più importante nella relazione fra brand e consumatori. L'osservatorio ICOM ha deciso di metterla al centro del sondaggio realizzato in occasione della terza edizione del rapporto consumatori, e quello che emerge è uno spaccato molto interessante. Gli italiani si fidano più dei supermercati che delle banche, pensate. 7 su 10 infatti promuovono la grande distribuzione contro solo 3 su 10 che danno fiducia alle banche. Promosse anche le compagnie aeree, bocciate invece e fanno peggio delle banche le aziende del trasporto pubblico locale, le compagnie ferroviarie e le assicurazioni, ultime in classifica. Per quanto riguarda le autorità, malissimo la Banca d'Italia, bene invece il garante per la privacy. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'osservatorio, Stefano da Empoli. Innanzitutto il dato interessante che emerge da questo sondaggio è un attivismo del consumatore italiano maggiore di quanto comunemente si pensi. Il 27,5% degli italiani hanno fatto nel corso dell'ultimo anno un reclamo scritto, quindi significa che c'è un attivismo piuttosto elevato da parte del consumatore. Che un altro risultato interessante del sondaggio: ha una fiducia, insomma, molto elevata nei confronti sia delle associazioni dei consumatori sia dei siti di comparazione dei prezzi. Di fatto la popolarità, insomma, sia delle associazioni sia di questi siti di comparazione dei prezzi, che permettono naturalmente anche risparmi significativi, è di 2 italiani su 3, insomma, all'incirca. Le autorità, ce ne sono alcune molto apprezzate, e in cima, diciamo, a quelle che sono apprezzate c'è il garante della privacy. Segnale che evidentemente c'è un problema di privacy che è avvertito la popolazione italiana, e che naturalmente è ingigantito anche dal web e dalla moltitudine delle modalità di comunicazione che si sono sviluppate negli ultimi anni. Ci sono, insomma, una serie di altre autorità che sono abbastanza apprezzate: l'autorità antitrust, l'autorità dell'energia, l'autorità delle comunicazioni. In coda invece, direi, insomma, con scarsa, se non molto scarsa fiducia da parte degli italiani, ci sono le autorità finanziarie, quindi Consob, IVASS, quella sulle assicurazioni, e la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, dato, diciamo, abbastanza forte, non gode della fiducia di un italiano su 2, quindi è un dato elevatissimo. Spicca la fiducia dei consumatori nei riguardi della grande distribuzione. Sì, il dato che colpisce è sicuramente questo, perché abbiamo un 73% di italiani che ha una fiducia pari o superiore a 6, quindi alla sufficienza nei confronti della grande distribuzione. seguita dalle compagnie aeree con il 61% degli italiani che hanno appunto fiducia almeno sufficiente nei confronti delle compagnie aeree. Io credo che in parte la fiducia così elevata sia nei confronti degli ipermercati e dei grandi magazzini sia nei confronti delle compagnie aeree derivi dal fatto che negli ultimi anni probabilmente ci sia la sensazione di poter risparmiare comunque molto, insomma, sia nei primi sia nei secondi, con come dire, insomma, una certa oculatezza, quindi insomma grande distribuzione rispetto agli esercizi tradizionali da un lato e magari compagnie aeree low cost rispetto alle compagnie aeree tradizionali. Quindi è una fiducia che corrisponde alla dinamicità dell'offerta in qualche modo? Secondo me sì, e alla possibilità della domanda di risparmiare molto con appunto una certa offerta migliore. In fondo la classifica, diciamo, è un dato che fa il paio con quello delle autorità finanziarie. C'è il settore finanziario, quindi le banche e le assicurazioni sono nettamente nella fascia bassa della classifica e per distacco sono le ultime. In una fascia un po' più sopra, ma dove prevale il dato negativo, ci sono sicuramente le compagnie ferroviarie e ci sono le aziende del trasporto pubblico locale, quindi c'è, come dire, una nota dolente riguardo ai trasporti. Anche qui probabilmente una scarsa capacità da parte del consumatore di poter scegliere tra diversi soggetti. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di uno dei temi a noi molto cari, il recupero, la valorizzazione delle professioni artigianali, dei mestieri. Ecco perché ci ha incuriosito questa notizia. Sapete che esiste un campionato mondiale dei mestieri, vere e proprie olimpiadi, si chiamano World Skills. Ci sono gironi di qualificazione regionali, nazionali ed europei fino alla sfida finale. La prossima sarà a San Paolo in Brasile nel 2015. Qualche giorno fa a Torino, nell'ambito della Job Fair Io Lavoro, c'è stato uno di questi campionati regionali. Il promo che sentite in sottofondo lo trovate sulla nostra pagina Facebook. 3 giorni di gare, 46 giovani dai 17 ai 22 anni che si sono sfidati come cuochi, camerieri, pasticceri, grafici, web designer e meccanici. Franco Chiaramonte, direttore di Piemonte Lavoro. Oggi è indispensabile offrire ai giovani, alle famiglie, alle persone che sono alla ricerca di lavoro, soprattutto all'inizio della storia lavorativa, anche un punto di vista diverso sulle opportunità che derivano al lavoro da mestieri che vengono un po' trascurati, salvo, so, come il cuoco, che oggi è all'attenzione per i programmi televisivi che sono stati lanciati. Hanno partecipato per le selezioni le scuole, gli istituti professionali, i centri di formazione e durante le gare poi ospitiamo le scolaresche, i visitatori che possono vedere i mestieri all'opera. Ecco, questo è un grande valore orientativo. Ecco, raccontiamo agli ascoltatori perché per una gara fra cuochi, insomma, viene facile immaginare che cosa succeda. Per una fra meccanici d'auto, invece, insomma, o la si vede o ce la deve raccontare lei. È molto bella perché ci sono 10 postazioni, sono le auto con i motori, sono dei protocolli di gara molto rigorosi fissati a livello internazionale. Un gruppo di esperti ha definito le prove, quindi sono stati creati dei guasti e i ragazzi competono sul protocollo, ognuno ha la sua postazione, devono individuare e risolvere diversi tipi di problematiche legate alla manutenzione e alla riparazione del motore. Stiamo attraversando una grande riscoperta della formazione professionale, un po' per la crisi, un po' perché si è scoperto che le abilità anche tutte italiane, insomma, in questo senso vanno rivalorizzate. Ecco, voi dal vostro osservatorio avete il polso su questo fenomeno, ce lo confermate? Sì, lo confermiamo, possiamo dire che proprio la scelta di organizzare queste competizioni è anche legata all'idea di dare una visibilità, un valore, a permettere anche di confrontare tra loro diversi insegnanti, professori che insegnano nei centri di formazione e far vedere quanto di valore può essere la formazione e quanto può dare alla prospettiva di lavoro dei giovani. In queste prove ci sono 25 giudici selezionati nelle scuole, nei centri di formazione e ognuno a capo un esperto internazionale dei World Skills. Beh, abbiamo ricevuto i complimenti da questi esperti per la professionalità e per il valore e anche le competenze dei nostri insegnanti. Via, via, vieni via di qui. Nel mondo della moda, The Sartorialist è il fashion blog numero uno, il più visitato, il più influente. Sono immagini di persone comuni fotografate per strada con l'occhio dello stilista. Parola d'ordine, street style. C'è chi ha deciso di fare la stessa cosa ma con le biciclette, fotografandone una diversa ogni giorno per le strade di Roma, ma non solo. Nicolò De De Vitis, 23 anni, si è inventato la figura del bike blogger. Il suo account su Instagram _ divano letto ha raggiunto quasi 30.000 followers. L'idea è nata grazie ai fashion blog, diciamo. Come modelle prendo le biciclette, no, le modelle solite che ti dicono e ti consigliano l'outfit giusto, il brand da seguire o la maglietta da comprare. Sono delle biciclette trovate casualmente in giro per il mondo nei miei viaggi. Mai nessuna impostata, nel senso non è che l'ho poggiata, messa, sono tutte trovate casualmente. C'è New York, Milan, ovviamente io sono di Roma, quindi Roma la fa da padrona, però poi c'è Amsterdam, che lì è la patria proprio, diciamo è il paradiso delle biciclette, e c'è Milano, c'è Napoli, Bologna, e San Francisco, un po' diciamo da est ad ovest. Quindi il mondo visto attraverso le due ruote. Le due ruote, esatto. Ma tu nasci fotografo o nasci ciclista? Sei più l'uno o l'altro? Nella mia bio, anche sul profilo di Instagram, c'è scritto: io non sono un fotografo, nel senso non mi sento di dire, non ho la presunzione di poter dire sono un fotografo, perché ho ancora un sacco di imparare, poi tutte le mie foto sono fatte con un semplice smartphone. Ciclista sì, cioè nel senso giro per Roma nel weekend, perché sai, i sette colli purtroppo non ce lo permettono molto. Si dice che ogni bicicletta assomiglia al suo padrone, un po' come i cani. Tu ci pensi ai proprietari delle biciclette che fotografi? Sì, un sacco, ti posso dire anche che non so perché, ma sto notando che le foto più belle, sarà un caso, sono quelle con le biciclette da donna. Le bici da donna, quindi quelle con la secca, quella da donna, quindi per salire comodamente, non so, sarà io da uomo, non so, però comunque hanno anche dei... Perché principalmente non è che non è la bicicletta che fa la foto, secondo me è tutto il contesto, perché io prendo, non è che faccio la foto alla bicicletta, ok? L'importante è anche il contesto, lo sfondo che c'è dietro, magari ne ho scattata una con un murale dietro, bello, una bellissima con la cabina delle lettere rossa di Roma, bellissima, e anche questa infatti era di donna, come se fossero un quadro per queste biciclette, perché do anche un titolo a ogni foto. Io sì, ogni volta quando scatto uno si immagina, no? Poi sono un po' romantico, quindi mi piace immaginare chi c'è dietro, chi sia, se un giorno magari potrà vederla, oppure se è un mio follower o chissà cosa. Io infatti adesso anche per farmi trovare, tra virgolette, ho fatto degli adesivi piccolini in cui dopo che ho scattato la bicicletta gliela lascio un pezzetto attaccato, poi se vuole se lo tiene o altrimenti lo leva, con scritto: guarda, la tua bicicletta è stata scattata da Divano Letto, poi la trovi sulla pagina Instagram. Essere e avere. Applicare immediatamente il pannose e getta sulla zona interessata. Ecco fatto. Bene. Ah sì. Ah, è piacevole come sensazione. Chissà perché le donne si lamentano sempre della ceretta alle gambe. E ecco, una mossa decisa, tirare la striscia in direzione opposta al verso del pelo. No, no, no, no, così al contrario. E una, due, tre. Ma sono delle pazze. Una volta che lo fai, non lo fai più. Focus sui trend. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Ve lo ricordate Mel Gibson nella scena cult di Quello che le donne vogliono? Era il 2000, da allora molte cose sono cambiate. Basti pensare che la ceretta, come anticipavamo prima del rientro, è il servizio più venduto per gli uomini nei centri estetici. Nel 2013 più di un prodotto su quattro nelle vendite cosmetiche è un prodotto maschile, la beauty care al maschile, che ha raggiunto ormai il 20%. 26%, pensate, del mercato riserva molte sorprese e anche qualche mania da raccontare. Una su tutti, la barba, nuovo accessorio del fascino maschile sfoggiata dalle star e dai pluricitati hipster. Ne parliamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Luisa, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovati anche voi, buon pomeriggio a tutti. Partiamo allora dalla barba. Sì, certo. Diciamo innanzitutto che l'uomo in genere comincia a preoccuparsi della propria bellezza partendo da una singola parte del corpo e da lì impara a prendersi cura poi di tutto il resto. E la parte del corpo scelta è diversa e spesso è legata alla fascia di età. L'attenzione per la barba ora è molto diffusa e riguarda però principalmente i più giovani, i 25-35 anni. E dunque si impara a prendersi cura della propria barba nelle barberie e infatti stanno ritornando ad essere molto frequentati sia per i servizi offerti con tecniche molto professionali, ma anche poi proprio per il clima un po' vintage che si respira all'interno. E a Milano, per esempio, proprio molto recentemente, il 25 marzo, Kiehl's, l'azienda di prodotti di cura per il corpo e la bellezza americana, ha inaugurato in partnership con Bullfrog il suo primo barbershop. È un corner all'interno del flagship di Via Dante, dove per esempio si effettua una rasatura americana con i panni caldi, addirittura dura 45 minuti piuttosto che una più veloce rimodellatura della barba. E anche un'azienda storica italiana, per esempio, di prodotti per la rasatura come ProRaso, ha colto l'importanza di questa tendenza, infatti aprirà a Milano entro l'anno la sua Accademia della Rasatura, aperta a professionisti che desiderano approfondire questi temi oppure persone anche neofiti che desiderano proprio imparare. Diciamo che questo modello di bellezza maschile con la barba si afferma spesso come un'espressione della propria unicità che si desidera però anche condividere ed è infatti interessante vedere come sono molti siti e community dedicati a questo tema. Ne cito uno tra tutti italiano, Avere la Barba, perché in questo sito è possibile anche proprio raccontare la propria storia di barbuto. All'opposto, Luisa, la ceretta. Sì. La ceretta è di fatto davvero il trattamento sempre più diffuso e richiesto dagli uomini, in questo caso parliamo della fascia più giovane, tra cui per esempio sportivi oppure persone che hanno tatuaggi sulla pelle. E visitando proprio recentemente la Fiera Cosmo Prof di Bologna dedicata proprio a tutto il mondo del care e della bellezza, abbiamo notato un'azienda in particolare polacca che si chiama Roix Pro, che è specializzata proprio nella produzione di cerette a base di zucchero e agiscono diversamente a seconda sulla base del calore del corpo. È interessante perché anche per altri nuovi prodotti si fa molta attenzione alla sostenibilità e alla compatibilità con l'ambiente, quindi sono sempre più diffusi prodotti per esempio di origine naturale come appunto questa che deriva dallo zucchero oppure legate a specificità del territorio. Parlavamo prima della quota di mercato ormai rappresentata dai prodotti maschili, quali sono i pezzi forti del beauty case maschile? Certo, diciamo che sempre così osservando le novità di Cosmoprof, c'è un'azienda francese che si chiama 66 gradi e 30 primi, che è l'inclinazione del parallelo della Terra rispetto al Sole, produce cosmetica solo per uomo e solo con prodotti naturali certificati vegani e ci raccontavano che è particolarmente l'uomo più maturo in questo caso, nel loro caso, che comincia a preoccuparsi della propria bellezza quando comincia a vedere le prime rughe intorno agli occhi. Ecco che allora il contorno occhi vero e proprio al maschile è una sorta di prodotto che funge da volano per poi iniziare ad approfondire la cura di sé su tutto il resto del corpo e infatti di solito si affiancano le creme anti-age. Certamente per un pubblico maschile, diciamo, un'altra parte sensibile del corpo per la cura di sé è sicuramente l'addome, infatti ci sono prodotti come Abdo Sculpt che è proprio un vero e proprio best seller di Sephora, che hanno queste funzioni di lavorare e migliorare la situazione dell'ADP nelle parti, diciamo, delle maniglie dell'amore. Per la tartaruga, insomma, sì, perfetta, tartaruga. Anche gli uomini hanno le loro ossessioni. Quali sono, per concludere Luisa, le tendenze che indirizzano in questo momento il mercato? Un ulteriore, diciamo, elemento importante in questo settore dei beauty maschile è quello della personalizzazione, cioè si apprezza molto un prodotto proposto per l'individuo in modo unico, come se fosse realizzato specificamente per lui. Infatti ci sono aziende che propongono prodotti che si adeguano proprio alle diverse esigenze della pelle attraverso un mix di elementi vari. Un'azienda giapponese, la V10 Plus, per esempio, propone 10 elementi base che poi, dopo una verifica chiaramente della differenza della propria pelle, vengono venduti ad hoc. In sintesi possiamo dire che gli uomini hanno, come le donne, atteggiamenti diversi nei confronti della cura di sé e della propria bellezza. Nei più giovani prevale un desiderio un po' più narcisistico, diciamo, di prendersi cura di sé, che è assolutamente in costante aumento. Questa passione per il vintage invece è un po' legata a una fascia di età un pochino più, diciamo, dei giovani adulti, che è espressione, diciamo, di un beauty definito un po' più da regole, dove si esprime talento e competenza, come dicevamo per esempio per la barba, per la rasatura. E invece in generale per un pubblico più adulto il timore di un'eccessiva femminilizzazione, diciamo, dei comportamenti si contrasta con questa personalizzazione. Italian Factor. Il nostro fattore di eccellenza, ormai lo sapete, non presenta incognite, non ci sono X, ha a che fare con le grandi eccellenze del nostro paese, lo stiamo delineando puntata per puntata in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Nuovo elemento di attivazione, oggi di cosa ci parli? Oggi l'officina creativa è l'argomento della nostra riflessione. Dobbiamo reimparare a utilizzare questa capacità che abbiamo anche di lavorare insieme, ce lo dimostra il grande successo delle botteghe rinascimentali a suo tempo, lavorare e sperimentare insieme. Non basta sviluppare un talento individuale, ma bisogna incrociare e soprattutto sfidarsi a vicenda. Su questo devo dire che le officine Arduino di Massimo Banzi e altre attività un po' legate a Fab Lab dimostrano che è possibile e che è anche molto attrattivo per i ragazzi. Quanto conta per queste realtà la dimensione partecipativa di condivisione? È fondamentale capire che la vera soddisfazione nel fare, nel produrre meglio di chiunque altri sta da un lato, naturalmente nello sviluppare il talento di ciascuno, ma anche poterlo raccontare e condividere. Cioè la felicità del produrre non è solipsistica, quindi non chiusi nelle nostre botteghe magari artigianali o nelle aziende, ma poterla dimostrare e moltiplicare anche attraverso lo sguardo dell'altro. Ecco, quindi l'officina in questo senso è paradigmatica. Oggi si fa un gran parlare di startup. Pensi che l'attenzione, che le risorse anche del sistema in termini economici si stiano attivando? Io lo spero, credo che questo sia il momento chiave in cui bisogna dimostrare che il Made in Italy, il Make in Italy e un po' tutti gli altri progetti che stanno nascendo sono in grado di sostenere il futuro, la visione futura di questo paese. O lo facciamo adesso oppure sarà davvero troppo tardi. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleone in regia. Trovate tutto come sempre sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Radio 24, sezione programmi, essere e avere. A sabato prossimo, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.